La Mishnah che abbiamo studiato l'ultima volta, qui sul 15A di Berachot, diceva che se una persona legge lo Shema ma non sente lui stesso al proprio orecchio quello che legge, che comunque esce l'obbligo, mentre invece c'era l'opinione di Rabbi Yose che diceva che non esce l'obbligo. E la Gemara che abbiamo studiato relativa a questa Mishnah ha analizzato un po' questa cosa per capire le motivazioni della discussione tra Rabbi Yose e il Tanakama, il primo maestro della Mishnah, e per questo si può fare riferimento alla lezione della scorsa volta. Ora la Gemara cita un'altra Mishnah, da un'altra Masechet, da un altro trattato, che però sembra che tratti una questione e una problematica simile a questa legata al sentire quello che si recita. In un altro contesto però. Qual è il contesto? Il contesto è la Mishnah del trattato di Terumot. Terumot è un trattato di Mishnah che parla della Terumah, soprattutto, cioè dell'offerta della Terumah che dal prodotto agricolo in Eretz Israel il agricoltore deve prelevare una certa quantità di prodotto e destinarla alla Terumah, cioè al Kohen, ai Kohanim. Quanta è la quantità che bisogna prelevare? Questo non è scritto nella Torah. Per la decima e per il Levi, la decima, 10%, ma per la Terumah del Kohen non è scritto. I maestri hanno capito che la quantità varia in base alla volontà della persona, ovvero chi vuole essere generoso dà 1 su 40, chi non vuole essere generoso dà un sessantesimo, e chi invece la media è un cinquantesimo per la Terumah. Ok? Ora, nel destinare, nella separazione della Terumah, si recita una Berachà, che è una mitzvah. E riguardo a questa Berachà, la Mishnah, adesso che sarà citata, parla di chi non ha possibilità di sentire la Berachà che egli dice. La sì. Terumah è per il Kohen e il decima per il Levi. Esatto. Okay. Sì. Terumah è per il Kohanim e il Maser, la decima è per il Levi. La Gemara cita la Mishnah. Tenan Hatam. Abbiamo studiato in una Mishnah, già ricordiamo bene che la parola Tenan è un codice di riferimento a una Mishnah che abbiamo studiato. Tenan vuol dire abbiamo studiato in una Mishnah. Hatam. Hatam vuol dire lì. Lì il senso è in un altro trattato, non in questo trattato. La citazione è la seguente. Cheresh, un sordo, normalmente un Cheresh potrebbe essere anche un sordo muto, quindi la Mishnah specifica, Cheresh, un sordo hamedaber, che non è muto, che parla, ve'einoshomea, ma non può sentire, lo yitrom, questa persona non deve essere quella che fa la Terumah, un'altra persona la deve fare per lui, perché? Visto che non può sentire la Berachà, anche se lui stesso fa la Berachà, non la può sentire. Evidentemente questo è problematico. La Mishnah, continua, questa Mishnah citata, e dice Ve'im taram, se invece avesse fatto la Terumah, cioè ha destinato una parte del prodotto per il Kohen, Terumato Terumah, quella Terumah è comunque valida. Anche se lui non poteva sentire la Berachà, comunque l'atto di destinare la Terumah è un atto valido, e quella Terumah è una Terumah valida che assume un certo livello di Kedushah e appartiene al Kohen. Quindi rientra nella mitzvah. A priori, la Mishnah, quindi c'è una situazione di a priori e una situazione di a posteriori. A priori non lo deve fare secondo questa Mishnah. Se invece a posteriori l'ha già fatto, la Terumah è valida, non è che non è valida e va rifatta. Non deve essere rifatta, è valida. Ok? Pensiamo adesso alla nostra Mishnah. La nostra Mishnah ha detto, chi legge lo Shema e non lo sente, esce l'obbligo. Mentre chi invece, Rabbi Yose, dice, non esce l'obbligo. Non esce l'obbligo vuol dire che anche a posteriori non va bene. Deve rifarla ad alta voce per poterla sentire. Allora, vediamo come la Gemara paragona queste due situazioni, la nostra Mishnah e quella Mishnah, per capire anche le opinioni che possono essere forse le stesse che abbiamo trovato nella nostra Mishnah applicate anche a quella Mishnah di Terumot. Vediamo un po'. La Gemara si pone la questione Man Tana. Chi è il Tana che ha insegnato questa altra Mishnah che abbiamo citato? Cheresh amedaber veino shomea, riguardo al sordo che parla ma non sente. Che la Mishnah ha detto riguardo a questo di Avad, a posteriori di Avad, vuol dire ha fatto post facto, già a, scusate, a cosa avvenuta, di Avad, è stato fatto già a posteriori in, va bene, solo a posteriori. Le katrila lo, ma a priori non lo deve fare lui la terumah, perché non può sentire la berocha. Quindi, questa è l'opinione della Mishnah. Qual è il maestro? Chi è il Tana? Può essere uno dei Tana, dei Tanaim della nostra Mishnah? Vediamo. Amar Rav Chisda. La Gemara tenta di rispondere alla domanda e dice, disse Rav Chisda, quel Tana che ha insegnato la Mishnah riguardo la Terumah, Rabbi Yosei, è una Mishnah insegnata dallo stesso Rabbi Yosei della nostra Mishnah. Perché? Ditnan, abbiamo studiato nella nostra Mishnah, Hakore et Shema velo hishmia le osno. Se uno legge lo Shema e non ha fatto sentire al proprio orecchio, Yatza, esce l'obbligo. Quindi la mitzvah è stata fatta. Divrei Rabbi Yehuda, questa è l'opinione di Rabbi Yehuda. Mentre invece, Rabbi Yosei Omer, Rabbi Yosei dice, lo yatza, non è uscito l'obbligo. Ancora non è chiaro come è Rabbi Yosei lo stesso che dice che a priori non lo deve fare, perché la nostra Mishnah non dice che Rabbi Yosei ha detto che a priori non lo deve fare. Dice solamente che non esce l'obbligo. Anche a posteriori non esce l'obbligo, secondo Rabbi Yosei, nella nostra Mishnah. Mentre nella Mishnah di Terumah, a posteriori va bene. Allora perché mi dici che la Mishnah di Terumah segue Rabbi Yosei? Dice no, fai più attenzione. Fai più attenzione, dice Rav Chisda. Ad kan lo kama Rabbi Yosei lo yatza. Quando è che Rabbi Yosei dice che non esce l'obbligo? Come che ha detto qui nella nostra Mishnah? Non lo dice se non che in un caso specifico. Ela gabei kriyat shema de oraita. Questo lo dice riguardo la lettura dello Shema, che anche a posteriori, a cosa fatta, non va bene, perché è una mitzvah de oraita. Cosa vuol dire de oraita? Ah, della Torah. La Torah, quelli. Un obbligo mi biblico direttamente. Aval Terumah, ma riguardo alla Terumah, non dice che anche a posteriori non va bene, perché qual è il problema qui della Terumah del sordo che non fa la Berachah? Non è perché non può fare Terumah, può fare Terumah. È per la Berachah che non sente. La mitzvah non dipende dalla Berachah. La mitzvah è una mitzvah. La Berachah è un'istituzione che i Chachamim hanno detto bisogna fare anche la Berachah. È una istruzione rabbinica. Di conseguenza, la Terumah, sì, è una mitzvah de oraita, è una mitzvah della Torah, ma anche chi è sordo lo può fare. Il problema diventa quando deve dire la Berachah che non può sentire, visto che la Berachah, adesso vediamo, dice che è de Rabbanan, u Berachah de Rabbanan, visto che l'obbligo della Berachah è un obbligo di Chachamim, ve lo bivrachah taglia milta. E non sulla bracha dipende la cosa, letteralmente. La mitzvah non dipende dalla bracha. La mitzvah sarebbe valida anche se non ci fosse la bracha, perché la Torah dà la mitzvah senza dare che la mitzvah che bisogna dire anche la bracha. Quindi è questo aspetto il perno della diversità. Questo è il perno della diversità, cioè Rabbi Yosei sarebbe dell'opinione che se tu fai la cosa, anche a posteriori non andrebbe bene. Se non la fai nella maniera giusta. Quindi se tu dici lo Shema, e secondo Rabbi Yosei bisogna sentire Shema, bisogna, come abbiamo spiegato l'altra volta, devi sentire quello che esce fuori dalle tue labbra, quello che pronuncia la tua bocca, visto che questa è una mitzvah della Torah e non l'hai fatto, anche a posteriori non va bene, va rifatta. Mentre invece nella Terumah, dice Rabbi Yosei, certo devi fare la berachah alta voce, Ma se non è possibile sentire come nel sordo, che non può sentirla, comunque bediavada, meglio che lo faccia qualcun altro, ma bediavada cosa fatta? A posteriori va bene perché la berakha è una mitzvah de Rabbanan, non è una mitzvah de Oraita, non è una mitzvah biblica. Quindi la terumah è sempre una terumah. Sembrerebbe quindi che secondo quanto abbiamo appena spiegato, secondo Rav Chisda che ha spiegato il paragone tra le due Mishnayot, quella nostra e quella di Terumah, sembrerebbe che non vogliamo dire che la Mishnah di Terumah segue l'opinione di Rabbi Yehuda, che è il primo Tana della nostra Mishnah, che dice esce l'obbligo, anche se dice Shema a bassa voce, esce l'obbligo, perché sembrerebbe che secondo Rabbi Yehuda il sordo può fare la Terumah e può dire la Berakha, anche se a priori sappiamo che non la sentirà. Non è solo a posteriori esce l'obbligo. Anche a priori, sembrerebbe. Ed è per questo che quella opinione non corrisponde a quella della nostra Mishnah, dove la cosa può funzionare solo a posteriori. Anche Rabbi Yehuda, cioè il primo Tana della nostra Mishnah, non ha detto la Shema va letto in silenzio senza che lo si sente. Ha detto Hakore, se è successo che l'ha letto così, è uscito l'obbligo. Se è successo, vuol dire una descrizione di un caso a posteriori. Non va fatto così e così. Se è stato fatto, siamo usciti l'obbligo. Ok? Ma nel caso della Terumah, Rabbi Yehuda sarebbe dell'opinione che a priori si può dire la Berakha senza sentirla, a differenza dello Shema, che lì a priori invece bisogna sentire lo Shema. Così sembra, adesso vediamo. Sì? Forse l'abbiamo già visto e non me lo ricordo io. Sì? Quindi, detto brutalmente, un sordo non esce mai d'obbligo con lo Shema. Forse l'abbiamo già visto, ma non me lo ricordo io. No, abbiamo detto che a posteriori si esce l'obbligo. Il sordo No? con lo Shema. Ah, non solo un sordo, anche chi non ha No, sentito. adesso parlo per chi obiettivamente non può, Sì, no? però è uguale, a posteriori si esce l'obbligo. Già metto un No? sordo, non sa neanche parlare. No, No, cioè, questa è già no, abbiamo un'altra cosa. generalmente Qui dico. stiamo parlando di Abbiamo visto che c'è chi Certo, può se non ha mai parlare. sentito. Alziamo anche legge. Scusate, scusate, eh? L'altra volta avevamo, se non ricordo male, no? Letto che prendi il sentire significa pure aver capito, aver percepito praticamente. Sì, ma questo è un Qui altro parliamo di. Sì, no, aspetto. non lo so. Questo è un altro Però. aspetto. Qui stiamo parlando proprio del sentire. Ok? Ora la Gemara affronta questo problema qui. Dice, come fai a sapere, Rav Chisda, che la Mishnah di lì della Terumah è proprio secondo l'opinione dello stesso Rabbi Yosè della nostra Mishnah, il quale ha detto che non esce l'obbligo se non ha sentito nello Shema. Invece lì sarebbe dell'opinione che visto che è solo della banan, tra virgolette, esce l'obbligo. Mi mai di Rabbi Yosehi. Come fai a sapere che davvero è l'opinione quella di Rabbi Yosè? Forse, Dilma Rabbi Yehudahi. Forse lì è Rabbi Yehuda che sta parlando nella Terumah e che dice che chi non riesce a sentire ma può parlare, se ha fatto la Terumah è valida. Forse lui dice la stessa cosa riguardo lo Shema. Ve'amar gabe kriyat Shema nami, e lui dice anche riguardo lo Shema qui nella nostra Mishnah, di avad en, che se è già stato fatto a posteriori allora va bene, anche se non ha sentito con le proprie orecchie lo Shema che ha detto, però lechatchilalo, però a priori, lui intende sempre dire che a priori bisogna sentirlo. Allora può essere che la nostra Mishnah, la prima opinione della nostra Mishnah, che dice anche chi ha sentito, cosa vuol dire chi ha letto? Chi ha letto vuol dire a posteriori. Allora, a posteriori esce l'obbligo, dice Rabbi Yehuda, il primo maestro della nostra Mishnah. Però vuol dire questo, che a priori lo devi dire anche a alta voce. È come esattamente nella Terumah, in teoria, che dice lì chiaramente che va sentito, però se lo ha fatto la Terumah, se lo ha fatto il sordo, la Terumah è sempre valida, è sempre a posteriori. Quindi forse è più logico dire che quella Mishnah segue l'opinione di Rabbi Yehuda. Perché dobbiamo saltare l'opinione di Rabbi Yehuda e andare subito da Rabbi Yosè? Possiamo dire che segue anche Rabbi Yehuda che dice quella Mishnah forse. ok? Le katani hakore, perché la nostra Mishnah dice hakore, colui che allegge, cioè già sta leggendo, è una descrizione di una situazione che già sta avvenendo o già è avvenuta, quindi a posteriori. È lì che lui dice esce l'obbligo, però da questo potresti capire che a priori non lo devi fare. Quindi esattamente come nella terumah, non va fatto, però se l'ha fatto terumato terumah, la terumah è valida. Allora Gemara dice no. Amre, hanno risposto i maestri della yeshiva e hanno detto, non è così. Hai de katane hakore, il fatto che la Mishnah ha usato un termine che indica a posteriori, hakore, colui che ha letto, colui che legge, non è per insegnarci che secondo Rabbi Yehuda si esce l'obbligo solo a posteriori. In realtà per Rabbi Yehuda si esce l'obbligo anche a priori, se non si sente lo Shema. Però, perché la Mishnah usa questo termine qui, che sembra parlare di a posteriori? Le hodiacha, per comunicare a noi, kocho de Rabbi Yose. Quanto Rabbi Yose è forte, cioè quanto lui vuole essere rigoroso in questo caso. De amar, ovvero che Rabbi Yose dice, di avad namilo. Anche a cose fatte, anche a posteriori, comunque non esce l'obbligo, deve essere ripetuta la cosa. Cioè il motivo per cui noi usiamo un termine che indica a posteriori non è per dire che secondo Rabbi Yehuda a priori andrebbe bene. Anche secondo Rabbi Yehuda a priori non andrebbe bene, bisogna dirlo ad alta voce. Non è che lui dice, se non l'hai detto, lo puoi dire a priori senza sentirlo. No, Rabbi Yehuda dice lo devi dire a priori sentendolo. Se non l'hai sentito, allora si è uscito l'obbligo a posteriori. La Mishnah quello che ci vuole dire con il fatto che usa un termine a posteriori è per dirci che secondo Rabbi Yose addirittura anche a posteriori non va bene, che è la posizione più rigorosa in questo contesto. Bisogna ripeterlo. Bisogna ripeterlo, vuol dire, quale sarebbe l'opinione più leggera in questo contesto? L'opinione più leggera sarebbe che anche a priori non devi sentire quello che stai dicendo. A priori, come si legge lo Shema? Come vuoi, anche a bassa voce senza sentirlo. Questo sarebbe a priori. Questo vuol dire l'opinione più leggera. Ma questa non è l'opinione di Rabbi Yehuda. Nessuno dice questo in altre parole. Anche Rabbi Yehuda, che nella nostra Mishnah è quello più leggero, che alleggerisce, comunque non dice questo. Dice no, a priori come va letto, alta voce, devi sentire quello che stai dicendo. Dove alleggerisce Rabbi Yehuda? Nel a posteriori. Se però l'hai letto e non hai sentito, comunque se è uscito l'obbligo, non devi ripetere. La posizione più rigorosa in questo contesto qual è? Non solo lo devi leggere alta voce a priori, ma anche a posteriori. Avendola letta a bassa voce e non avendo sentito, non va bene, devi ripetere. Questa è l'opinione più rigorosa. E questa è l'opinione di Rabbi Yose. Ed è questo il motivo che la Mishnah usa un linguaggio che indica un caso già in atto o a posteriori, hakore, colui che legge, e non dice korim, si legge in questa maniera, ma hakore, colui che ha letto in questa maniera, per indicarci quanto è rigoroso Rabbi Yose. E non è vero che Rabbi Yehuda dice anche a posteriori può essere leggero, a priori può essere leggero e leggerlo a bassa voce, no. Ma è vero sì invece che secondo Rabbi Yose vogliamo essere più rigorosi possibile e anche a posteriori non si esce l'obbligo e bisogna ripetere se non si è sentito al proprio orecchio lo Shema. Dei Rabbi Yehuda. Mentre invece secondo Rabbi Yehuda afilu lechatchila nami yatsa. La Gemara qui dice, scusate un secondo, secondo Rabbi Yehuda si esce l'obbligo anche a priori. Questa è una frase un po' complessa, perché ci sono diverse spiegazioni nei commentatori della Gemara. qui la Gemara vuole trasformare quello che abbiamo pensato e l'opinione di Rabbi Yehuda. Cioè noi vogliamo, come ripeto, abbiamo detto che la Gemara usa un termine di a posteriori per dire quanto è forte Rabbi Yose. Per dire che secondo Rabbi Yose anche a posteriori non va bene. Ok? E qual è l'altra faccia della moneta per Rabbi Yehuda? La Gemara vorrebbe dire adesso le katrila namiyatza. Secondo Rabbi Yehuda si uscirebbe l'obbligo anche a priori addirittura, cioè a priori non sentendo, leggendo così proprio di volontà, leggo lo Shema senza volerlo sentire, si uscirebbe l'obbligo. Quindi addirittura il senso più leggero di questa possibilità. Che questa cosa però non è così chiara. Cioè, noi abbiamo detto prima che Rabbi Yehuda dice a priori devi sentire. Se non hai sentito, sei uscito comunque l'obbligo. Qui la Gemara vorrebbe addirittura portare Rabbi Yehuda a una posizione ancora più leggera e dire anche le katrila, cioè anche a priori, sarebbe possibile leggere senza sentire. E questo subito la Gemara cerca di contestarlo. La Gemara dice, aspetta, come fai a sapere questo? Abbiamo una baraita, una fonte di Tanaim, dal quale vedremo che non è così semplice. La Gemara dice, scusate, tornando però alla Mishnah di Terumah, non ci dimentichiamo che qual è il problema. Stiamo cercando di applicare l'opinione di Rabbi Yehuda o di Rabbi Yose alla Mishnah di Terumah. Cosa abbiamo detto nella Mishnah di Terumah? Che chi non sente ma può parlare non dovrebbe fare la Terumah, ma se l'ha fatta la Terumah è valida. Quindi di nuovo una situazione di a priori non si fa, non va bene, a posteriori va bene. Vorremmo adesso applicarlo a Rabbi Yehuda. Prima abbiamo detto, Rav Chisda ha detto questa è l'opinione di Rabbi Yose, abbiamo detto però può essere anche valida per Rabbi Yehuda, ok? Perché secondo Rabbi Yehuda nella nostra Mishnah anche a priori va fatto in una certa maniera, a posteriori si è uscito l'obbligo. Perché non dire che era Rabbi Yehuda, il maestro di Terumah nel trattato di Terumot? Allora la Gemara dice, appunto ora cita questa braita, Elaha detane Rabbi Yehuda berede Rabbi Shimon ben Pasi. Rabbi Yehuda, il figlio di Rabbi Shimon ben Pasi, insegna in una braita, sempre per la Terumah, Cheresh hamedaber veino shomea. Qui c'è scritto un'altra cosa rispetto a quanto abbiamo visto nella Mishnah. Un sordo che può parlare ma non può sentire, Torem le katkhila, fa la Terumah a priori. Qui non c'è scritto non la fa ma se la fa va bene, qui c'è scritto la fa a priori. Allora questa qui come la mettiamo? Secondo Rabbi Yehuda o secondo Rabbi Yose? Certo che la fa a priori, perché non è che può sentire, se sente. No, la Mishnah ha detto per la Terumah, se uno è sordo e non sente la Berakha, non deve fare la Terumah, deve farla fare a qualcun altro. Quindi a priori non la fa. C'è un amico, se volete aprire. A priori non la fa. È Daniel. Vabbè, io non capisco, non posso... Solo un secondo. Sì, sì. Normalmente la Mishnah di Terumah cosa ha detto? Non fa la Terumah. Quale non la deve fare? Se l'ha fatta è uscito l'obbligo, è valida la Terumah. È valida. Se invece leggiamo la Braita che adesso abbiamo citato, cosa dice la Braita? La Braita dice anche uno che è in questa condizione che non sente può a priori fare la Terumah. E la Gemara si chiede, Mani, secondo quale dei Tanaim ha detto Rabbi Yehuda, figlio di Rabbi Shimon ben Pasi, questa cosa? Sembra lo Rabbi Yehuda ve lo Rabbi Yose. Sembrerebbe che l'opinione citata nella Braita non segue né quella di Rabbi Yehuda della nostra Mishnah, né quella di Rabbi Yose della nostra Mishnah. Perché? La Gemara spiega. I Rabbi Yehuda... Se tu volessi dirmi che questa opinione della Terumah seguirebbe Rabbi Yehuda Ha'amar di Avad En Katrilalo, noi abbiamo spiegato che Rabbi Yehuda dice che a posteriori va bene, ma non a priori. Giusto? Invece questa braita dice anche a priori va bene. Al contrario, se volessimo dire che segue Rabbi Yose, i Rabbi Yose Ammar bedi avad namilo, Rabbi Yose, abbiamo detto è quello più rigoroso in assoluto. Anche a posteriori non va bene, va rifatto, non è valida la mitzvah. E questa opinione della Braita che dice addirittura il modo più leggero in assoluto, cioè anche a priori va bene che il cheresh, che è il chi sordo che parla e non sente, può farlo, e allora non è né secondo uno né secondo l'altro. Tu mi vuoi dire che la Mishnah di Terumah segue Rabbi Yehuda? Mentre invece secondo Rabbi Yose la sua Berakha non è valida e la Terumah non è Terumah e deve tutto essere rifatto? Ma questa Braita, quale dei due opinioni segue? Sembra nessuno dei due. Comunque non è chiaro, Rav. Troppo macello. Non è troppo complicato? Io penso... No, io mi sono perso 10 minuti fa. Facciamo il punto della situazione. Io ho una fondamentale... Lo Shema si legge sì. A voce alta sì. Per sentirlo. Giusto. Un sordo non sentirà mai lo Shema. Giusto. La allora, domanda è, uno che non è un sordo, mia è se che, legge a bassa voce. No, io parlo voce. Del sordo. Ok. Il sordo, prima, durante, dopo, non lo sentirà mai. Di quello che ho detto prima io. Non uscirà mai. Non uscirà della... Cioè, della... non potrà mai sentire. O no, okay. O esce a okay. Condizione che tu accetti... che lui non può sentire, allora fa la truma, sì, fa tutto, e è tutto ok. Però dopo viene uno e dice okay. Che non lo può fare, allora se non lo può fare, tutto allora. Casca per terra, il castello cade. Allora, facciamo il punto della situazione. Ci sono due mitzvot di cui stiamo parlando. Sì. Una è la mitzvah dello Shema e una è la mitzvah della Terumah. Sì. Ok? Teoricamente bisogna sentire quando si dice lo Shema. La domanda è se non si è sentito, ma non perché uno è sordo e non potrà sentire. Uno che ha detto lo Shema a bassa voce questo troppo, di questo stiamo parlando, e non ha sentito, se esce l'obbligo o se deve ripetere. Questo sì. La nostra Mishnah cosa ha detto? La nostra Mishnah ha detto va a letto ad alta voce, ma se non ha sentito è uscito l'obbligo, vero? È venuto Rabbi Yose e ha detto no, se non ha sentito non è uscito l'obbligo, lo deve ripetere. Ovviamente lui non sta parlando del sordo, perché il sordo non lo può sentire, però sta parlando della persona che potrebbe sentirlo. Se non esce l'obbligo anche a posteriori deve essere ripetuto. E stiamo facendo un paragone con un'altra halakha che riguarda la Terumah. Nella Terumah c'è una berakha e la Mishnah ha detto chi non può proprio sentire, quindi sta parlando di quel caso estremo. Esatto. Il caso estremo dice, non si parla di questo caso estremo nello Shema, perché nello Shema comunque lui deve dire lo Shema, è obbligato a dire lo Shema, e se non può sentire è impossibilitato. Allora non è un problema. Ma nella Terumah non è obbligato per forza lui a farlo, può farlo qualcun altro. O per lui, o uno può delegare qualcuno a fare la Terumah. Uno può delegare un altro a fare la Terumah. Allora la Mishnah dice, un sordo, visto che non può sentire la propria Berakha, non deve fare la Terumah. Deve farlo fare a qualcun altro. Così come una persona normale potrebbe anche farlo fare a qualcun altro. Si può fare attraverso un agente la Terumah, non è meno mitzvah. Sempre la stessa mitzvah. Allora dice, siccome non può sentire, non la fa. Se invece l'ha fatto, è valida. Comunque è valido. Sembra come l'inizio della nostra Mishnah, che ha detto va a letto a alta voce, ma se l'ha letto a bassa voce, comunque non deve rifarlo. È valido, sembra come Rabbi Yehuda. Ma un maestro della Gemara all'inizio, Rav Chisda, ha detto no. La Mishnah di Terumah invece segue Rabbi Yose. E su questo abbiamo discusso, avanti e indietro, e ora torniamo a dire che no, la Mishnah di Terumah segue sempre l'opinione di Rabbi Yehuda, cioè la prima opinione della nostra Mishnah, ovvero che bisognerebbe farlo a alta voce, se non lo si è fatto a alta voce, si esce l'obbligo. Ok? Però c'è solo un punto ancora da chiarire, adesso la Gemara chiarirà. Vediamo. La Gemara dice: Ela Leolam. In realtà ciò che si diceva nella Braita, anche quella Braita estrema che abbiamo citato, che ha detto che il sordo può a priori fare la terumà, dice segue Rabbi Yehuda. E Rabbi Yehuda, secondo la Gemara, ora è dell'opinione che va filu le katkhila nami. Anche a priori si può dire lo Shema senza sentirlo. A priori. Si può dire lo Shema, si può dire una Berakha, come nel caso della Terumah, senza sentirlo. E la Mishnah, di cui abbiamo citato all'inizio di Terumah, che dice che chi sente, chi non sente, non faccia la Terumah, infatti quella non è secondo Rabbi Yehuda. Quando diciamo è secondo Rabbi Yehuda, stiamo parlando della Baraita che abbiamo appena citato, Rabbi Yehuda, figlio di Rabbi Shimon ben Pasi. Ma quella Mishnah lì non segue Rabbi Yehuda, quella veramente segue Rabbi Yosè, e la Terumah è Terumah solo a posteriori, non dovrebbe farla. Se l'ha fatta, è comunque Terumah a posteriori. Perché a posteriori va bene? Perché la Berakha, come abbiamo già spiegato prima, è de Rabbanan. Non è de Oraita. Allora la Terumah è comunque resa valida dal fatto stesso che ha fatto il prelievo. Perché è quello l'atto della Terumah. Sì? Vella Kasia, e non c'è difficoltà. Qual è la difficoltà? La difficoltà tra la Baraita che abbiamo citato adesso, che anche a priori va bene per il sordo fare la Terumah, e il paragone con lo Shema qual è? Che anche a priori si può leggere lo Shema a bassa voce, mentre invece in un'altra Baraita abbiamo studiato che riguardo la Birkat Hamazon bisogna sentire la Birkat Hamazon e solo a posteriori si esce l'obbligo se non si è sentito. E anche quella è attribuita a Rabbi Yehuda, allora c'è una contraddizione, che nello Shema, in teoria come stiamo spiegando adesso la nostra Mishnah, e nella Terumah come in quella Baraita, secondo Rabbi Yehuda, a priori si può fare senza sentire. Ma nella Birkat Hamazon invece dice che solo a posteriori va bene se non si è sentito, quindi a priori bisogna farlo in maniera sentita, che si sente. Allora la Gemara dice, queste due Beraitot, una di Terumah, dove dice che anche a priori va bene, una di Birkat Hamazon dove dice a priori non va bene, solo a posteriori, sono entrambe state insegnate da Rabbi Yehuda, però con una differenza. Qui è il trick. Come si dice il trick? Il trucco. Eccolo qua. Ha di dei ve ha di rabbei. Questa beraita riguarda il sordo e la terumah e lo shema nella Mishnah, riguarda la sua propria opinione di Rabbi Yehuda. E lui, la sua opinione propria, sua, personale, è che anche a priori si può fare senza sentire. Quando parlava invece della Birkat Hamazon, ha de Rabbei, non stava riportando la sua opinione personale, bensì l'opinione del suo Rav. Dell'opinione stava citando il suo maestro. Ma lui stesso non è di questa opinione. Chi è il suo Rav? Rabbi Elazar ben Azaria, che noi citeremo tra un po' nella Gemara. Dove? Adesso la Mishnah dice di cosa si parla? Di sempre dello Shema. Ed è una Baraita, c'è scritto di Tnan, ma in realtà è una Baraita. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. E quello dice proprio chiaramente che lo sta dicendo a nome del suo maestro. Rabbi Yehuda, sì è vero è Rabbi Yehuda, Omer Mishum a nome di Rabbi Elazar ben Azaria, quindi non è la sua opinione personale, è l'opinione del suo maestro. E qual è? Dice Hakore et Shema Tzarich Shiyashmia Leosno. Colui che legge lo Shema Tzarich dovrebbe far sentire al proprio orecchio Shenemar Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dovrebbe far sentire al suo orecchio, vuol dire a priori deve far sentire al suo orecchio, ma se a posteriori non ha fatto sentire al suo orecchio, Yatza, esce l'obbligo. Questa è l'opinione di Rabbi Elazar ben Azaria, citato dal suo allievo Rabbi Yehuda. Ma l'opinione stessa personale di Rabbi Yehuda è che anche a priori si può leggere a bassa voce. Insomma, nulla è lasciato al caso. Io non sono assolutamente preparato, no, per questo. Per me è troppo dire, allora, solo un secondo. Non lo fai, il risultato non è per me. Finiamo solo la citazione di questa Braita. Amar lei Rabbi Meir, disse Rabbi Meir a Rabbi Elazar ben Azaria, che ha appena detto questo. Arei hu omer, dice perché devi sentire a priori? La Torah dice Asher anochi metzavecha hayom alevavecha. Cosa c'è scritto nello Shema? Queste parole che io ti dico dove devono stare? Alevavecha. Levavecha nella Torah vuol dire il pensiero. Ok? E la Gemara e Rabbi Meir dice Achar kavanat avelev halev hen hen advarim. Tutto il concetto dipende dal pensiero e dall'intenzione della persona. Quindi, quello è l'importante, di capire, di sentire quello che sta dicendo, ma non con la voce, con il pensiero, no? E non c'è nessun problema di sentire. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che secondo Rabbi Elazar ben Azaria, a priori bisogna sentire, mentre secondo Rabbi Meir, che discute con lui, dice no, l'importante è il pensiero, anche a priori non bisogna sentire. Ecco un altro che dice come Rabbi Uda nostro, che anche a priori non serve sentire, a priori l'importanza è nell'intento e non nella cosa sentita, pronunciata. Ok? Allora la Gemara dice, hai citato Rabbi Meir, che chiaramente nella Braita dice questo. Noi avevamo detto che è probabile, da quanto abbiamo analizzato, che secondo Rabbi Yehuda a priori si può stare in silenzio. Si può dirlo in silenzio. Ma qui non è che abbiamo analizzato, qui è esplicito che Rabbi Meir ha questa opinione. Allora la Gemara dice, ok, a questo punto abbiamo risolto meglio. Ora che hai citato questo, che siamo arrivati a vedere che anche Rabbi Meir proprio esplicitamente dice che a priori si può leggere a bassa voce, allora puoi anche non dire quello che abbiamo detto prima, che prima citava il maestro, adesso cita se stesso, possiamo conciliare la cosa, possiamo dire Afilu teima Rabbi Yehuda che Rabbei sfira lei. Puoi dire che Rabbi Yehuda, la sua opinione personale è che Rabbei, come il suo maestro, e cioè che a priori bisogna sentire, solo a posteriori va bene se non si è sentito. E comunque ve lo cascia e non c'è nessuna difficoltà. Perché Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, dove abbiamo visto nella Braita che il sordo può fare a priori la terumà senza sentire, questo è secondo Rabbi Meir, che dice la stessa cosa esplicitamente nello Shema, che a priori si può dire a bassa voce perché importante è il pensiero, e dove invece si dice che nella Mishnah di terumà, che a priori bisogna che non lo fa perché non lo può sentire, ma a posteriori è valido. Questa è l'opinione di Rabbi Yehuda e lo applichiamo anche alla nostra Mishnah. Rabbi Yehuda dice nello Shema bisognerebbe sentire, se non si è sentito è valido comunque a posteriori, mentre Rabbi Yose, come di nuovo fa l'opinione più rigorosa, non si deve dire a bassa voce, anche se si è detto a bassa voce già fatto, a posteriori va rifatto. E quella è l'opinione di Rabbi Yose.